Europa 24. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Daniele Biacchiersi. Il quadro macroeconomico internazionale è più favorevole. Economie europea e italiana stanno entrando in una finestra di opportunità, lo ha detto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che è intervenuto oggi al Salone del Risparmio. Sentiamolo. L'economia europea e l'economia italiana stanno entrando in una finestra macroeconomica di opportunità. Ma questa finestra di opportunità non ci condurrà in una situazione come quella in cui ci si trovava prima della crisi. Questo non è possibile e non è neanche auspicabile. Dove andremo a finire con questa finestra dipenderà da quali azioni il governo e i governi intenderanno prendere. L'uscita dalla recessione deve essere un'occasione indispensabile e unica per un forte miglioramento qualitativo e quantitativo della struttura dell'economia. Lo sforzo del governo, quindi, di fronte a condizioni macroeconomiche più favorevoli, non diminuisce, ma anzi si intensifica. C'è evidentemente un forte legame fra stato di fiducia e scelte dei risparmiatori. La fiducia piano piano si sta consolidando. L'Italia sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati, ha ottenuto in misura tangibile la fiducia delle istituzioni internazionali. Deve vincere definitivamente la battaglia della fiducia dei suoi stessi cittadini. Export in netta crescita a febbraio verso i paesi extra UE. Secondo i dati diffusi dall'Istat, le esportazioni hanno registrato un aumento del 4,5% rispetto a gennaio, del 7,1% rispetto a febbraio 2014. Il rialzo congiunturale dell'export è trainato dai beni strumentali, più 13,7%, ed è dovuto in gran parte alla vendita di mezzi di navigazione marittima. E ora l'indice IFO, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi. Migliora la fiducia delle imprese tedesche e di conseguenza non possono che migliorare anche le aspettative per l'Europa. L'indice IFO, infatti, quello che misura il clima delle imprese, in Germania segna a marzo 107,9 punti rispetto a 106,8 di febbraio, ben oltre le attese di mercato ferme a 107,3, una crescita che viene registrata per il quinto mese consecutivo e che raggiunge i massimi da luglio 2014. E a migliorare sono soprattutto i giudizi sulla situazione futura, mentre a livello settoriale le aspettative più rosee sono per il comparto manifatturiero. Secondo gli economisti è un dato che, unito alla robusta crescita del PIL registrata nel quarto trimestre 2014 e proseguita nel 2015, indica come l'ottimismo sia tornato sul versante tedesco, tant'è che a febbraio la Commissione europea aveva alzato le sue previsioni sul PIL tedesco a più 1,5 per il 2015, mentre l'OCSE ha portato le sue stime a più 1,7 dal precedente 1,1%. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'Unione Europea ha deciso di rafforzare la sua cooperazione con la Tunisia nella lotta contro il terrorismo, tramite un dialogo politico, ma anche progetti concreti nell'ambito di un sostegno alla riforma del settore della sicurezza. A pochi giorni di distanza dall'attentato del Bardo, il messaggio dell'Unione Europea nell'ultimo rapporto annuale sulle relazioni con i paesi partner vicini, qui evidenzia la minaccia della Libia, la necessità di riformare polizia e gestione delle frontiere. Il Tribunale dell'Unione Europea conferma il divieto a Sea Handling di accedere ai documenti sul procedimento amministrativo che ha portato alla decisione dell'antitrust europea del 2012 sul recupero di 360 milioni di euro aiuti di Stato. Nel febbraio 2013 Sea Handling aveva chiesto alla Commissione Europea l'accesso ai documenti, ottenendo una risposta negativa. Poi si era rivolta al Tribunale perché annullasse la decisione di Bruxelles. Con la sentenza odierna il Tribunale europeo respinge dunque il ricorso nella sua interezza. Alle 14:05 minuti e 57 secondi vi saluta qui Daniele Biacchiersi, vi dà appuntamento questa sera in Europa Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.